Il modo in cui vediamo il mondo è fortemente influenzato dai modelli che li rappresentano davanti a noi. E 200 anni fa, 300 anni fa, si è diffusa la percezione dell'universo come un meccanismo ad orologeria, al seguito della scoperta delle leggi della gravitazione universale. E io vorrei identificare con la nascita della percezione digitale del mondo non tanto la creazione dei primi calcolatori che sono nati negli anni 40, bensì proprio agli albori del XX secolo quella scoperta che ha dato ad Einstein il premio Nobel, non la relatività ristretta o generale, bensì la scoperta dell'effetto fotoelettrico, cioè di come il mondo non sia intuitivo, come le nostre leggi possono riflettere una nuova percezione del mondo che non è quello davanti ai nostri occhi. Quel futuro che è cominciato all'inizio del XX secolo si è diffuso in una maniera che non è stato naturalmente uniforme, sia da un punto di vista geografico che nelle sue applicazioni, nelle società che potevano accoglierlo più rapidamente oppure resistere al futuro che stava arrivando. Questo è stato espresso molto bene da William Gibson, che dice: questo è vero anche oggi, il futuro è già qui, solo non è ancora uniformemente distribuito. E quindi, se vogliamo capire com'è il futuro, possiamo già vederne le forme attraverso i comportamenti di quei gruppi che identifichiamo come particolarmente attenti o particolarmente permeabili a quelli che sono i nuovi stimoli. Soltanto che se 50 anni fa era particolarmente comodo per il mondo della scuola, del lavoro, la struttura della famiglia, della società, per come è stato allora impostato la rete di protezioni sociali, la previdenza e il sistema pensionistico, e 3, 4, 5 anni dopo che qualcuno andava in pensione moriva, oggi non solo viviamo più a lungo una vita estremamente attiva, dove alla fine degli anni di quando siamo settantenni o ottantenni riteniamo di avere il diritto, ed è giusto che sia così, è bellissimo che sia così, a contribuire a quello che è l'esplorazione del presente, ma contemporaneamente a questo allungamento della vita attiva delle persone, i cambiamenti hanno cominciato ad accumularsi veramente troppo rapidamente. Le cose oggi cambiano più in fretta di quanto riusciamo a morire. Quindi assistiamo al penosissimo fenomeno di come quotidianamente in assalti primitivi viene confuso l'effetto con la causa. YouTube non causa il bullismo. Chi punta con una frequenza ormai quasi quotidiana a legiferare perché internet venga oscurato, garantisce che coloro che amano internet trovino gli strumenti lo stesso per partecipare al futuro del pianeta, ma nello stesso tempo garantisce che questa partecipazione avvenga al di fuori di quelle barriere eventualmente geografiche dove internet, come sembra debba avvenire in Italia, è proibito. Ci sono alla discussione nel Parlamento oggi almeno 4 leggi che nei fatti comportano la criminalizzazione dell'attività che tutti oggi noi facciamo, partecipare al mondo digitale online, al futuro del pianeta. Nello stesso tempo, il modo in cui questa partecipazione alla cultura e alla creatività approfitta dei nuovi mezzi, così come la nostra mentalità è influenzata dal modo e dei modelli in cui vediamo il mondo, la forma di questi mezzi non può che riflettersi sul modo in cui viviamo e creiamo la cultura. Perché non ce ne rendiamo conto, ma tantissimo di quello che oggi ci sembra necessario, ma sicuramente scontato, è un compromesso prettamente e meramente commerciale. Voi pensate che gli autori dei romanzi che ci piacciono abbiano davvero avuto da dire per 800.000 pagine per poi improvvisamente smettere? O può darsi che magari qualcuno avrebbe voluto smettere dopo 300 pagine, o 200, anche 100? Ma era il suo agente, il suo editore che dicevano no, non è possibile commercializzare un libro fisico che sostenga i costi di produzione e di promozione se non ha almeno un certo volume. Questo che tutti i nostri figli dovrebbero avere nelle cartelle, che costa meno che non la dotazione di un singolo anno di libri scolastici e che contiene in forma ricercabile, con una batteria che dura 2 settimane di utilizzo continuo, è il libro elettronico, è il futuro che si può visualizzare, vedere alla luce aperta del sole, al parco, ovunque noi siamo, e che nelle prossime versioni già in fase di produzione è interattivo, con per esempio le equazioni che vengono mostrate mentre voi le svolgete e che fa vedere dove state sbagliando se avete commesso un errore. È su questa piattaforma che si svilupperanno nuovi modi di fare cultura e di utilizzare la cultura per esplorare il mondo, dove per esempio il prossimo premio Nobel per la letteratura potrebbe scrivere romanzi da 10 pagine, totalmente inimmaginabili nel mondo dell'Ottocento o del XX secolo. Quando al liceo un mio compagno particolarmente coraggioso andava a fotocopiare la pagina della enciclopedia in biblioteca, avendo ricevuto il compito di fare la ricerca, invece di ricopiare con la penna le stesse parole, veniva punito perché esprimeva la inutilità del compito. Ed è pericoloso naturalmente portare all'aperto le debolezze dell'insegnante che hai di fronte. Oggi Wikipedia viene analogamente additato come qualcosa che è da evitare, quindi qualcuno che stampasse l'articolo da Wikipedia per dire ho fatto la ricerca verrebbe analogamente punito. Ma quanto sarebbe facile prendere per dato l'accesso universale alla conoscenza oggi? Mi ha sorpreso un po' quando, apparentemente, per come abbiamo capito Derrick e io, pochi di voi hanno detto sì, molti di voi hanno detto no alla domanda se avete cambiato articoli di Wikipedia. Non c'è niente che mi infuria di più che sentire su questo argomento le opinioni spocchiose degli esperti che hanno trovato un errore in Wikipedia. E perché un secondo dopo non l'hai corretto? Perché? Perché cosa te l'ha impedito? Te l'ha impedito la percezione che puoi preservare i tuoi diritti acquisiti vivendo nella torre d'avorio dove la conoscenza era qualcosa di prezioso per pochi aristocratici. E questo non è il mondo di oggi. Quindi, per esempio, Wikipedia potrebbe essere la base per una ricerca comparativa di argomenti, perché la capacità critica di confronto venga sviluppata a partire dai 10 anni. Non che qualcuno arriva all'università e uno gli dice però tu adesso devi sviluppare la tua capacità critica. È possibile, oggi questo è direttamente possibile, magari con i personaggi di Pokémon, che hanno una loro enciclopedia dedicata al di fuori di Wikipedia, perché rischiavano di inondarla tutta di Pokémon, e c'è una cultura estremamente fervente su questo, su cui si può innescare la curiosità dei bambini giovanissimi. Naturalmente, anche quelli di noi che vivono le proprie identità digitali con abbandono e con curiosità, abbracciando le novità, si rendono conto che non conosciamo tutto. Il privilegio di crescere in un ambiente protetto di un piccolo paese E poi immaginare quando si andrà a Milano a fare l'università e vivere quel grande cambiamento quando la personalità immaginata diventa quella che abbiamo occasione di costruire nella realtà. E poi dire sì, vado a Londra a fare una prima esperienza di lavoro e niente dei pregiudizi che mi vestivano e che mi pesavano addosso per gli errori che naturalmente facevo mi seguirà, perché avrò modo di ricominciare da zero. È qualcosa di molto diverso rispetto ad un profilo online che anno dopo anno dopo anno dopo anno ci cresce addosso e che oggi non abbiamo assolutamente i mezzi per svestire. Non è una questione meramente di privacy nel momento in cui è naturale vivere la propria vita in modo trasparente, ma ci sono conseguenze di cui oggi non ci rendiamo nemmeno conto, e sono queste le conseguenze che dobbiamo invece cercare di capire. IGEM, International Genetically Engineered Machines Competition, è un concorso internazionale dove le squadre si iscrivono e ricevono un kit per disegnare e stampare i batteri geneticamente modificati che combatteranno per vedere quali di questi raggiunge lo scopo che il gruppo si era prefissato. Uno di questi, per esempio, ha reso percettibile il tasso di diffusione e di crescita delle colonie batteriche assegnando un diverso odore a queste fasi. Il batterio sapeva di muschio all'inizio, di rosa nella seconda fase di crescita esplosiva, e poi quando andava saturando il proprio ambiente emanava un odore ancora diverso. Questo concorso è per le scuole secondarie, per i licei di tutto il mondo. L'anno scorso ha vinto un gruppo slovacco. Mi chiedo quante scuole italiane partecipano, ed è il mondo in cui i vostri figli vivono oggi. Ed ieri la notizia del Massachusetts Institute of Technology. In un mondo dove in Italia esistono istituti universitari che fanno corsi online a numero chiuso, come se il web si saturasse dell'eccessivo numero di persone che desiderano partecipare al corso dell'università italiana di provincia, il più prestigioso istituto non solo apre i propri corsi a chiunque, in modo che le menti migliori chiedano di ricevere i grant per poi andare gratuitamente a studiare accanto a quelli che si possono permettere di pagare, ma prende all'unanimità la decisione di imporre ai propri ricercatori di pubblicare solo ed esclusivamente ad accesso aperto, a scapito delle riviste scientifiche che pretendono che le università paghino per la cultura. E da ieri chiunque faccia ricerca e voglia fare pubblicazioni all'MIT deve giustificare con procedure pesanti e magari anche risvolti negativi come mai eventualmente vuole fare opt-out, cioè come mai non vuole partecipare a questo che viene imposto a tutti. La Singularity University, che è nata da poco con la sponsorizzazione di NASA e di Google e di cui sono advisor, si propone proprio questo, cioè di preparare l'umanità all'impatto dell'accelerazione del cambiamento tecnologico, preparare le persone a capire in modo interdisciplinare ed utilizzando gli ultimi strumenti che sono a disposizione che cosa il mondo di oggi comporta già, perché il futuro è già arrivato. Non ci sono barriere alla partecipazione. Uno dei presidenti di IBM ha detto: se vuoi aumentare il tuo tasso di successo, devi raddoppiare il tuo tasso dei fallimenti. Ed ebbene, è quello che è avvenuto. Internet ha moltiplicato per 1000 volte le opportunità di fallimento che abbiamo di fronte, senza aumentare il costo del successo. Ed è per questo che le ondate di boom e di sboom non smetteranno, perché ci saranno milioni di persone se non in America, che non se lo può permettere, se non in Italia, che desidera ardentemente di non partecipare, saranno milioni e miliardi di persone in India e in Cina che faranno il futuro del pianeta. Grazie.